Eccoci qua, eccoci ritornati in diretta su Radio Wombat, la fuga del gatto come ogni domenica in elegante ritardo. Così. Come ogni elegante domenica in elegante ritardo. Certo. E Fuga del Gatto. Bentornate, bentornati. Radio Wombat, ovviamente 20, domenica 20. Che mese siamo? Gennaio. È andata così. È andata, fa freddo ancora. Quest'anno è andata così. Ebbene sì. E 20 gennaio. Allora, puntata di oggi un po' particolare perché la scorsa puntata, io non so perché chiaramente milioni di persone ci ascoltano in diretta, certo, ogni domenica, soprattutto la nostra trasmissione, certo c'è anche qualcuno che ascolta le altre trasmissioni di Radio Wombat, ma onestamente è un po' di riflesso, tutto, diciamocelo, siamo noi che ci comunque, portiamo dietro. Certo. Sì. Vabbè, e quindi non so se probabilmente faremo un po' uno sgarbo a queste milioni di persone che ci hanno ascoltato domenica scorsa, perché dobbiamo replicare paro paro la trasmissione di domenica scorsa. Quindi chi l'ha già sentita, immagino appunto tantissimi e tantissime, la sentirà due volte. No, in realtà appunto è andata così che per problemi tecnici, io domenica scorsa ho fatto una bellissima diretta che proprio si lanciava in mille discorsi, analisi, eccetera, sull'opera Venus and Adonis, Venere e Adone di John Blow. E poi vi ho fatto sentire l'ascolto integrale, bellissimo, bellissimo, ho caricato tutto il podcast, tutto ho fatto bene, tutto, sono andata a riascoltarlo e faceva schifo perché per un problema tecnico brutale in realtà la mia trasmissione è andata con un audio completamente saturo, inascoltabile. Io spero che appunto che nessuno di voi fosse in ascolto, che fossi da sola a parlare da sola e quindi nessuno se n'è accorto, ma se qualcuno ci ha sentito in diretta avrà detto ma che è sta roba, ci perdoni, cambiato penso canale. E vabbè, ma noi facciamo la riedizione, la rifacciamo, tanto appunto addirittura oggi siamo in due, per cui redacted, sì. Venus e Adonis redacted, la rifacciamo così ci prendiamo anche più tempo, insomma vi diciamo poi le stesse cose che abbiamo detto l'altra volta, ma ve le diciamo tanto meglio, non si sentiva bene, quindi. E infatti poi in stereo voglio volta, dire quindi, esatto, con l'eco, prestate attenzione signori, signore e signori, allora, perché oggi appunto introduciamo a quest'opera. Opera, perché ricordiamolo, il nostro ciclo, le soap-opera, ci impone ogni tanto sì. Cioè, non vi è andata nemmeno male, perché non è nemmeno di quelle proprio più hardcore, quindi. No, tra l'altro noi, come ormai avrete imparato a conoscerci, siamo abbastanza use, volevo usare questo termine finesse, un po', guardi, scusa, veramente. Proporre delle opere che non sono proprio delle opere, quelle più conosciute, no. Anche se comunque vi abbiamo anche fatto ascoltare, sì, delle fatto anche Carmen, e infatti, insomma, però ecco, non sentirete magari da noi l'Aida, no, la Turandot, o magari non solo, ecco. Bah, ecco, insomma, tanto quelle sono un po' trite, abbiamo sentite tutte, sì, magari cioè, si sentono di squiscio, nel senso che ci sono delle cose estratte che abbiamo fatto sentire, però insomma si cerca di evitare il repertorio classico italiano, anche perché come abbiamo detto tante volte fa parte delle nostre lamentazioni classiche, la programmazione delle concertistica e operistica soprattutto dei nostri teatri in Italia è sempre quella, sì, non solo dei nostri, poi in realtà dei nostri, ahimè, in particolare, però insomma e più o meno si rimane sempre su quella, a parte qualche raro incursione splua, però purtroppo. E quindi insomma c'è mille modi per ascoltarsi le solite quattro opere trite e ritrite, tra l'altro anche YouTube, esatto. E quindi invece proviamo a proporvi degli ascolti di opere un pochino meno abusate per l'appunto e meno conosciute, tra cui questa che secondo me è difficile che conosciate, oppure insomma magari la conoscete e viva, però altrimenti insomma la scoprirete, sì, e magari vi incuriosirà. Si tratta appunto di John Blow, Venere ed Adone, Venus and Adonis, Allora, partiamo subito da un po' di note biografiche di Blow, perché anche John Blow in Italia diciamo che non è proprio conosciutissimo, non è uno dei primi compositori che si ascolta o si spiegano o si raccontano. Ovviamente in Inghilterra è ben più conosciuto, ma da noi un po' meno, quindi forse necessita un po' di introduzione biografica quantomeno. Allora, Blow, maestro di Purcell, innanzitutto, sì. Probabilmente Purcell ben più noto ormai. Sì, anche grazie a te che ve lo propino. Sì, che giustamente. Giustamente. Esatto, diciamo di sì. Ognuno ha le sue ossessioni, non infatti, possiamo fare. Infatti, non facciamo del facile razzismo. Ci mancherebbe. E quindi Blow, maestro di Purcell gli successe perché appunto, come era d'uso nel 600, ma non solo nel 600, anche prima, eccetera, e anche dopo, peraltro, c'era il maestro di corte, c'erano dei compositori, musicisti di corte che avevano un ruolo molto importante, insomma, erano un po' le star della questione. Blow era star poi fino a un certo punto, perché insomma in realtà fondamentalmente erano degli artigiani, avevano una maestranza e sì, lavoravano. Beh, chiaro, non è, cioè, era un concetto diverso, chiaramente il ruolo era un ruolo diverso rispetto sì, a quello che poi insomma che sarà, no, che verrà del dopo. Compositore sì in generale. Blow era appunto un maestro a corte, cioè, dava le sue lezioni tra cui agli allievi, tra cui Purcell, e che poi prese il suo posto. Purtroppo Purcell poi morì precocemente e quindi di nuovo si riavvicendarono e di nuovo Blow prese il suo vecchio posto. Ereditò, diciamo. Riereditò il proprio posto che precedentemente era stato preso dal suo allievo, quindi una successione un po' strana. Tra l'altro i due, cioè, non immaginate, so che siete maliziosi, non immaginate subito delle lotte per il potere, dell'invidia, gelosia, coltellate alle spalle. In realtà erano molto legati, si volevano molto bene, e per Blow la morte di Purcell fu un bruttissimo colpo, insomma non sperava di dover riprendere il proprio posto, insomma fu molto triste per questo, tant'è che gli dedicò una bellissima ode, la ode sulla morte del signor Harry Purcell, che appunto testimonia un po' questo affetto. Era anche reciproca, perché comunque a sua volta Purcell aveva imparato moltissimo da Blow e lo stimava moltissimo, e proprio l'opera che ci ascoltiamo adesso, Venus and Adonis di Blow, fu l'ispirazione per il ormai oggettivamente ben più noto Dido and Aeneas di Purcell, che abbiamo presentato, mi sembra. Sì, sì, sì. Ho avuto un lapsus anch'io, non mi ricordo, ma sì. Delle parti, almeno delle parti. Sì, sicuramente. E comunque è un'opera che è più conosciuta, addirittura a volte l'ho addirittura vista esatto, a teatro in Italia, insomma è un po', è arrivata a noi un po' più nota, sì diciamo, ben di più, e che comunque è ispirata appunto a quest'opera che ci ascoltiamo oggi di John Blow, Venus and Adonis, che è un'opera in tre atti. Noi facciamo un po' diverso da come facciamo normalmente per il ciclo delle soap opera, cioè non faremo che raccontiamo la storia un po' alla volta e vi facciamo ascoltare un po' alla volta l'opera, perché questa si tratta di un'opera, come spesso avveniva in quell'epoca, corta tutto sommato, soprattutto se la paragoniamo alle opere invece ottocentesche, tipiche. Beh, certo. È un'opera che dura circa 50 minuti, mi sembra, sì, 49 minuti e 36, quindi insomma è un'opera che si ascolta velocemente tutto sommato e non c'è bisogno di farne grandi estratti, ve la faremo ascoltare integralmente alla fine di questa piccola introduzione che vi facciamo, quindi vi possiamo raccontare un po' tutto subito e poi vi lasciamo dopo alla musica per intero. Allora, un'opera, diciamo, in tre atti, fu scritta a corte, perché come si diceva prima era lì, esatto, che appunto che lui lavorava, che era risiedeva. Proprio parte del, certo, e dedicata, proprio formalmente viene scritto proprio nel libretto, dedicata all'intrattenimento del re, no scusate, nel libretto, nella partitura, all'intrattenimento del re. Si parla della corte di Carlo II, sì. Giusto? Perché Carlo II Stuart, sì. Esatto, lui perché appunto è esattamente, l'abbiamo detto l'anno? Non l'abbiamo detto. Ecco, siamo per darvi una così, una panoramica di tempo, la prima rappresentazione è del 1683, quindi giusto, diciamo la fine del 1600 e appunto siamo alla corte di Carlo II. Sì, in realtà era abbastanza vivace, come cioè ci sono diverse, aveva ereditato un po', diciamo, quella che era la tradizione delle corti inglesi da Elisabetta in poi, anche se c'era stato appunto, lui era erede di del ramo scozzese, appunto degli Stuart, però insomma aveva la corte inglese aveva sempre avuto una predisposizione, una vivacità in questo senso all'opera, alla musica. Sì, che veniva appunto dalla tradizione no, shakespeariana e poi insomma, in generale elisabettiana. Vivacità peraltro anche in generale dell'ambiente politico perché, e storico, perché in quel momento insomma era un periodino piuttosto complesso. Sì, infatti appunto era, sarebbe veramente entrare fino no. a... però insomma... Carlo II fu un personaggio particolare che alla fine abolì il Parlamento, peraltro il governo da sovrano e regnò poi come sovrano assoluto fino al 1685, quindi insomma in realtà siamo già alla fine del suo regno sì. in questo momento, però ecco c'è insomma tutta una serie di passaggi piuttosto complicati, storici. Sì, per i due. Cui, sì, in più c'è questo forte, no, è noto per questo forte, appunto per il ritorno a questa figura forte del re e molto edonista, no? C'è questo ritratto di Carlo come no, il monarca allegro, questo forte edonismo della corte, questo... diciamo sollievo generale perché veniva esattamente appunto dopo l'esperienza di Cromwell e di Puritani, quindi esatto, dopo avevano chiuso i teatri, Carlo II è il re che fa riaprire i teatri, che riporta la produzione teatrale insomma a Londra, quindi insomma è un re che è fortemente legato a poi al teatro, alla musica stessa, proprio per questo, perché viene appunto dopo questo periodo, no? Dopo tutta la parte appunto dell'oscurantismo, del puritanesimo di Cromwell, che aveva silenziato proprio questo aspetto della vita artistica, ecco. Eh sì. E quindi... Quindi i due, appunto, sia Blow che poi anche dopo Parsons, insomma, si trovano a comporre in un periodo, ecco, un po' particolare, ma per certi versi anche a loro favorevole, diciamo. E fu scritta, quindi, per l'intrattenimento del re, dicevamo, quest'opera, ed è l'unica composizione per teatro che ci rimane di Blow, purtroppo le altre sono andate perdute e come si diceva non è Blow un compositore particolarmente noto, ma non perché non ne valesse la pena che arrivasse fino a noi, ma perché purtroppo ci è arrivato poco effettivamente, quindi in realtà anche le sue composizioni sono bellissime secondo me, non sono da meno degli altri suoi contemporanei, ma purtroppo ce n'è rimaste ben poche, anche se le composizioni strumentali ce ne sono in realtà, ma insomma ad esempio di opere questa sola abbiamo. E quest'opera, Venus and Adonis, è definito mask. Vi ricordate che la scorsa volta parlavamo di mask a proposito del King Arthur di Purcell, esatto. Quindi queste semiopere dove si alternava una parte recitate un po' più al teatro alla Shakespeare, per capirsi, alternate invece a parti cantate, strumentali, insomma c'era molta più vivacità e molta più varietà anche nell'opera, che non era organica sempre uguale come invece è stato poi dopo. E poi c'erano soprattutto queste incredibili scene fatte con effetti speciali, macchine, esatto, rotanti. Si diceva l'altra volta proprio le macchinerie del 600, del barocco, no? Del tardo barocco, che cominciavano a entrare a far parte del repertorio teatrale, che erano proprio i primi, no, perché in Italia esistevano già dal Rinascimento, però diciamo, no, i primi ingegni proprio funzionanti a livello di produzione teatrale più fissa, e che si legavano appunto a questo senso della, dovevano restituire questo senso della meraviglia, del wonder, appunto, che è tipico del barocco, del tardo barocco, insomma, in generale. Quindi è proprio un periodo del teatro di massima, come dire, espansione tecnica, esatto, sperimentazione, e con questa concezione di questo tipo, anche se in realtà viene definita masque quest'opera, ma in realtà non lo è, perché per l'appunto è, almeno da un punto di vista musicale, invece è un'opera vera e propria come la conosciamo adesso, perché è musicata dall'inizio alla fine, non ci sono parti recitate, ma è tutta cantata, e quindi insomma è un'opera che si avvicina molto di più alla nostra concezione un po' più moderna. E una delle prime opere inglesi, e non si conosce l'autore del poema drammatico, quello che da poi, cui è tratto. Sì, da cui poi è stato tratto il libretto, il testo. Come dicevamo, la prima presentazione è di fine del 600, del 1683, e diverge dalla versione shakespeariana della Metamorfosi in questione, perché, scusate, in effetti non l'abbiamo detto, la Metamorfosi, la metamorfosi di Ovidio. Il mito, sì, il mito di Venere e Adone, che appunto poi alla fine lo vedremo, contiene una metamorfosi di cui racconta Ovidio, e questo mito è talmente forte, talmente interessante e denso di significati, che ovviamente in tutti questi secoli e anche dopo ha prolificato, e tanti ne hanno tratto, sì, opere. Ha trovato varie, appunto, varie versioni e vari sì, adattamenti. In tanti ne sono rimasti affascinati, se ne sono fatti ispirare, e quindi uno tra questi era Shakespeare, ovviamente, che ha dedicato al mito di Venere ed Adone un'opera molto importante, ma rivedendo un po' il mito di Ovidio, discostandosi un po' dalla sua versione. Invece Blow, il poema che poi ha fornito il testo per quest'opera, invece è molto più fedele alla versione di Ovidio, quindi è un pochino più appunto filologica, tanto per entrare nel vivo del racconto e raccontarvi subito di cosa parla quest'opera. Adone è l'amante mortale di Venere. Come sappiamo, gli dèi avevano un bel po' di amanti, tra cui anche non qui solo dèi. Si potrebbe fare una dedica, una citazione alla Brusca, perché da questa c'è sicuramente un termine, io non lo so, quando il nome da, no, da nome per personale, appunto, di un soggetto, di un personaggio, diventa poi un aggettivo, in realtà diventa come dire, sei un Adone. Perché viene da qui, perché lui era talmente bello, talmente prestante, credo, cioè, che si dica sei un Adone. Ora siamo noi, siamo di sicuro c'è un termine per dire questo, speriamo che le bruschette ce lo dicano. Comunque da qui sei un Adone è rimasto. Sì, perché Venere, voglio dire, non era proprio la prima arrivata, cioè era una che insomma poteva evidentemente scegliere tra popoli interi di dèi, semidei, ma che aveva problemi la ragazza, e lei tra i tanti si è scelta anche Adone, che era un mortale, era un cacciatore, un contadinotto, come diremmo, guardi, un pastorello. E perché chiaramente l'Arcadia e tutte queste ambientazioni, che paride, infatti è sempre quella roba lì, insomma ispirava. Adone era particolarmente figo, ovviamente, però insomma. Ovviamente. E appunto Venere si fa irretire da Adone, dalla bellezza di Adone e da quant'altro, e quindi Adone diventa il suo amante, non senza problemi, perché questa unione non è vista di buon grado da molti, ma lei se ne frega e Adone pure. E inizia questa opera Venere Adone con un prologo dove c'è la classica scena arcadica dove Venere corre nella foresta in queste atmosfere tipicamente rinascimentale, con questa leggerezza e anche ambiguità, cioè a me così viene in mente subito Botticelli, così certo. Siamo un po' più avanti, però l'immaginario sì, quello però lì, ecco certo. sì e appunto quindi con immaginatevi questa leggerezza che però anche carica di significato e di simboli anche filosofici, per cui in realtà non ha niente, poi lo sentiremo anche dalla musica, non è una musica lieve e spensierata, è una gioia però complessa, certo. Complessa, ambigua, carica di significato. E quindi anche il prologo, lo sentirete, è complesso e pieno. E c'è appunto Venere che scorrazza, tutta contenta, corre nella foresta e c'è un po' questo inizio così floreale e arcadico. Proprio per spiegare un po' l'ambiguità e i significati che ci sono poi dietro anche a queste scene apparentemente giulive e basta, Cupido in una delle prime scene si rivolge ai pastori che ovviamente sono sempre un po' i momenti di cori in questo tipo di opere sono sempre pastori, chiaro, pastori, pastorelle, ninfe, ecco, sono sempre sì. loro. E Cupido si rivolge a questi pastori dicendo: cortigiani, in voi non esiste fedeltà, sempre che potete cambiate, e le vostre donne restano fedeli fin tanto che non ne trovano un altro. A corte rinvengo costanti e fedeli solo uno o due vecchi. Quindi una discreta quantità dose di ironia e di diciamo un modo per descrivere sia il proprio tempo ma anche una visione filosofica dell'amore che in realtà è tipica non soltanto di quell'epoca, appunto siamo a fine Seicento, ma soprattutto anche dell'epoca più un po' più lontana, che era quella del Rinascimento, che però insomma a cui evidentemente queste opere vogliono dare omaggio. Fare, certo. E passiamo da queste scene al secondo atto, dove appunto si celebra la visione filosofica dell'amore e della giovinezza fondamentalmente attraverso un dialogo tra Venere e Cupido, il figlio. Non è un'opera dove ci sono grandi avvenimenti, onestamente, non è che succede chissà che, succede tutto alla fine. Esatto. Quindi soprattutto, primi... vabbè, sai, era appunto anche molto basata sull'atmosfera, appunto su questa rappresentazione. In realtà, probabilmente, e anche, io non lo so, non l'ho studiata, però ci sono sicuramente dei riferimenti anche politici, delle allegorie, no? Si deve pensare che Carlo è... appunto tornò in Inghilterra a reclamare il trono che era appunto per anni era stato il protettorato di Cromwell, lui era esule in Francia e cioè, l'Inghilterra era stata senza re, quindi no, anche questo ritorno alla terra, boh, chissà, magari è simboleggiato proprio da, anche poi ne parleremo, no? Dai nemici, insomma, dalla presenza degli animali che potrebbero rappresentare dei pericoli, perché probabilmente come ogni artista anche lui si ispira al clima culturale che aveva intorno e quindi no, questa riapertura della vita artistica grazie al ritorno del re che poi riprese il trono, insomma fu incoronato, però si deve pensare che c'era stata una rivoluzione fondamentalmente, una guerra civile, una rivoluzione che era durata anni, a cui poi lui col suo ritorno riesce a mettere fine, quindi probabilmente ci sono dei passaggi leggendo nell'opera che potrebbero essere allegorici anche della vita politica, certo. del ritorno appunto, ma tra l'altro alle origini proprio, cioè a quello che era prima del periodo del protettorato, quindi del periodo di diverso che c'era stato nel mezzo, ecco. Ma sì, tra l'altro poi lo vedremo, ci sono molti rimandi anche proprio alla musica francese, che poi come quando abbiamo parlato di Lully, per esempio, e raccontavamo di come Lully in qualche modo era un compositore che aveva una concezione della musica che la musica in qualche modo doveva celebrare il re, doveva celebrare appunto proprio quell'atmosfera politica che si viveva in quel momento, la grandiosità del re, quanto bene faceva, quanto si stava bene sotto il re, eccetera, eccetera. C'era lui, sì, caro lei. Diciamo che in Francia ce l'avevano molto di più. Sì, vabbè. Però qui si sente l'influenza, si sente a livello musicale, ma si sente anche a livello di contenuto, quindi non è tanto importante il singolo avvenimento all'interno dell'opera, non c'è una trama particolarmente complessa, ma si cerca di celebrare una visione filosofica e politica e quindi, sì, certo, quindi scene larghe, simbolica, insomma, fatta di simboli, di rimandi, che ovviamente chi capisce, capisce. Esatto, a buon intenditore. Esatto. Dicevamo che c'è questo grande dialogo tra Venere e il figlio Cupido, dove fondamentalmente si spiega la visione filosofica dell'amore e della giovinezza, e anche qui non a caso i riferimenti politici ci sono, e sono ben visibili, perché c'è un palese e divertito gioco tra i giovani, che sono in qualche modo le nuove generazioni che adesso sono al potere, che in qualche modo appunto si sono scontrate contro i vecchi, che è la loro austerità e la loro chiusura, e quindi insomma è evidente anche qua il gioco. Andando avanti nell'opera si arriva un po' alla trama, quello che poi è l'episodio fondamentale e centrale del mito, anche oltre che a quest'opera, perché appunto abbiamo detto che Adone era un cacciatore, andava a caccia. Venere non è proprio contentissima che Adone vada a caccia, però lo accetta in qualche maniera, ma gli dice: però se devi andare a caccia, almeno occhio, caccia solo gli animali che non sono pericolosi. Cioè, questa cosa è bellissima. Cioè, caccia i rospi, che devi cacciare? Cioè, no, i cinghiali, I topi, perché comunque cose che non ti possono far male. Sono preoccupata. E devi essere pavido, così, perché sennò poi ti fai male. E quindi, per favore, caccia soltanto quelle cose che non gli animali non pericolosi. Che Adone, chiaramente, secondo voi che fa? È chiaro che non assolutamente non gli dà retta, ma neanche per 5 minuti. Infatti, quindi che è successo? Come poi alla fine hanno sempre ragione le donne. Te l'avevo detto io. Cosa succede? Che durante una battuta di caccia che lui fa di nascosto da Venere, lo stesso che caccia il cinghiale, e che succede? Viene ucciso proprio da un cinghiale. Esatto. E parte appunto il te l'avevo detto. E Venere non è presente durante questo terribile incidente, arriva dopo, lo raggiunge, lo trova ormai morto e lo vede riverso in terra nel suo sangue disperata ovviamente, trasforma il suo sangue in un fiore, l'anemone, e annuncia che ogni anno Adone verrà ricordato con una festività che da lui prenderà poi il nome, che sono le feste Adonie. E questo fiore, l'anemone, che appunto deriva dalla trasformazione del sangue rosso di Adone, è un qualcosa che poi ha colpito profondamente tutta la cultura da Ovidio in giù o in su, che dir si voglia. E la ritroviamo ovunque, non solo appunto nella musica, ma anche e soprattutto nell'arte. Ci sono allegorie, certo, moltissimi quadri, pitture, sculture che rappresentano la morte di Adone. È uno dei temi fondamentali. E anche e soprattutto nel 600, tra l'altro. Quindi era un qualcosa che era molto vissuto e molto sentito. Quindi anche questa volta l'opera di John Blow è un'opera che tratta in qualche modo un argomento paradossalmente sulla cresta dell'onda, nel senso che anche se chiaro, non è successo ora, no vabbè, okay, però è... no vabbè, certo, va contestualizzato al fatto che appunto ci sono dei temi, dei cicli che a seconda dei momenti storici ritorna il barocco, in particolare essendo legato a tutta questa così estetica dell'Arcadia e del ha chiaramente una connessione forte, ritrova in certi temi molta ispirazione. Ma questo l'abbiamo visto anche con, insomma, no, con le prime opere, l'abbiamo visto appunto con Parzel, lo vedremo con Haydn, insomma, cioè comunque i temi erano in quel periodo che erano in voga, appunto, che erano i temi così, ma come magari nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, certo, erano stati appunto altri avevano avuto altri riferimenti. Il Rinascimento chiaramente che riportò alla luce poi tutta la, no, gran parte insomma della produzione classica, quindi greco e romana, chiaramente cioè, cronologicamente poi anche il Cinquecento manierista e il Barocco si rifanno poi a tutto quello che era stato riportato alla luce durante il Rinascimento. E per certi versi lo rilegge. Certo, lo rileggono chiaramente con il senno del loro tempo, però sì, quindi danno anche dei significati diversi, soprattutto tutto questo aspetto della natura, della naturalità, no? È proprio non a caso l'anemone, perché anche in tantissimi... cioè proprio il barocco, si è detto mille volte, significa perla, quindi insomma la perla proprio è dentro la conchiglia, quindi il senso dell'apparizione, della meraviglia, della natura che ritorna in tutto, nell'architettura, nella musica, si pensa proprio a... Pensate, insomma, veramente, ma in Italia, ma non solo, in particolare in Italia, con artisti come Gian Bologna, come Cellini, cioè l'ispirazione naturale della natura, la natura quella proprio fisica, quindi i fiori, le piante, molto, cioè ancora, cioè, se nel Rinascimento c'era, però era più stilizzata, era più idealizzata, la natura barocca è proprio quella veramente... degli studi, anche perché poi anche la scienza in qualche modo nasce, si evolve, quindi si lega, cioè è tutto molto... Sì, e le metamorfosi di Ovidio in questo sono perfette, perché colgono lo stupore, colgono la trasformazione della dell'uomo e la connessione che ha con la natura. Appunto, citavi prima Gian Bologna e Cellini, Bernini ci starebbe benissimo, esatto, nel trittico. E quindi sì, i temi più o meno sono questi, la sensibilità barocca è abbastanza intellegibile, si vede chiaramente. Ci sono, come vi dicevamo all'inizio, molti rimandi alla musica francese, non solo di senso e di così appunto di significato politico, ma anche di struttura, proprio. Anche di struttura e di proprio musicalmente. Ad esempio, il prologo è un'ouverture alla francese, molto molto vicina allo stile di Lully, lo sentirete. Non ci sono delle arie ben riconoscibili in quest'opera, come poi invece si ritroverà nelle opere più classiche a cui siamo abituati, della tradizione operistica dei secoli successivi, ma è quest'opera un flusso continuo di voci e strumenti, un po' così come appunto dicevamo, non ci sono degli eventi e una trama che subisce degli scossoni, tranne la fine, è un'atmosfera, e quindi anche la musica non è interrotta da dei singoli discorsi che hanno più importanza rispetto al resto, è l'intero, l'insieme che è importante. Questa cosa rende ancora meglio un po' l'idea di fiaba di Arcadia, che era tipica dell'idea rinascimentale, che poi viene riletta appunto dalla sensibilità barocca. Una fiaba in cui si entra e un'atmosfera incantata, e ci si può soltanto entrare e ascoltare, fermarci ad ascoltare e farci raccontare questa fiaba e prenderla per com'è. Non ci sono dei personaggi che in qualche modo interrompono e ti dicono in maniera quasi didascalica il loro punto di chiaro vista. C'è un intero che va tenuto presente, che si impone in qualche modo. Sì, proprio in senso di affresco, no? Esatto. Proprio in senso di... Esatto, è molto corale da tutti i punti di vista. Allora, quindi basta, questa più o meno è stata la nostra introduzione. Direi che boh, se non hai altre cose da aggiungere. No, direi che si può presentare la versione che sentiamo oggi. Sì, della London Baroque Ensemble, direttore Charles Medlan. E abbiamo tre interpreti principali, a parte i cori, che sono nel ruolo di Cupido Nancy Argenta, soprano, nel ruolo di Venere Lion Dawson, un altro soprano, e nel ruolo di Adone Stephen Verco, un basso. E bah, vi direi che vi possiamo lasciare all'ascolto integrale di quest'opera e vi diamo a questo punto... Ah no, ci dimenticavamo di leggere bello. I social wombat, perché poi voi vi distraete come sì. Noi. Esatto, io me ne ero già scordati. In realtà, prima dei social wombat, se qualcuno ci ascolta in diretta appunto oggi ed è interessato, martedì 22 al cinema Odeon ci sarà un'altra diretta dalla Royal Opera House, questo ciclo che stanno facendo per chi è a Firenze ed è interessato, e tra l'altro a questo giro manderanno in diretta dalla Royal Opera House di Londra La Dama di Picche, che è una delle poche opere, forse l'unica, credo, opera lirica di Tchaikovsky. Ma pensa. E deve essere molto interessante perché appunto uno Tchaikovsky sente sempre, no? Appunto i balletti, i concerti. Le solite. Eccetera. Invece questa Dama di Picche è una produzione della Royal Opera House, molto bella, si dice, insomma, molto curata, vabbè, loro ovviamente. E verrà mandata appunto in diretta, quindi una tantum, martedì 22. 21? Che ora? Alle ore 20 e 15 mi sembra, ah, perché presto, la mandano in diretta, perché sì, perché siamo un'ora. Ed ecco, per chi fosse interessato, è in questo ciclo appunto di appuntamenti che il Cinema Odeon fa in diretta dalla Royal Opera House. Ve l'avevo già annunciato, ci sono stati dei balletti e domani ci sarà appunto La Dama di Picche. Per chi fosse interessato. Benissimo. E i social wombat appunto sono sempre i soliti, ma ormai se non li avete tatuati sul braccio ve li ricordo: wombat.noblogs.org. E stiamo facendo dei ritocchi al palinsesto, quindi tenetevi aggiornati, guardate un pochino i cambiamenti. Tra poco vi annuncio ci sarà una nuova trasmissione, ancora non sappiamo bene quando, ma sta per arrivare finalmente una nuova trasmissione hip hop che prenderà un po' il posto lasciato vuoto e sconsolato di Mortal Wombat. E insomma ci sono un po' di novità, quindi tenetevi aggiornati. Poi la casella di posta, postawombat@insiberia.net, alla quale potete scriverci. E insomma ci sono novità in corso che stanno arrivando, ce ne sono diverse, tenetevi aggiornati e aggiornate. E ci risentiamo con La Fuga del Gatto, invece domenica prossima sempre intorno alle 6, abbiate fede e pazienza, fede insomma in noi, e arriveremo a un certo fede punto. Fede nelle divinità. Che siamo noi. È ovvio. E a un certo punto arriveremo. Insomma, inteso. Sì, arriveremo. E si sta sempre pavoneggiando, voi non potete vedere. Chiaro, ma ogni tanto, d'altronde, su qualcosa, se no veramente uno non sa fare nient'altro. Questo è la neanche fuga del pavone. Bene, la fuga del pavone, ma abbiate pazienza, perché anche con il nostro quarto d'ora accademico, insomma, a volte diventa 20 minuti, però ce la possiamo fare, e per chi ci ascolta in podcast, ancora meglio, insomma, grazie dell'attenzione. A domenica, ciao ciao. Ciao a tutti. Thank you. Oh, mm-hmm. Thou is set of leading Yeah. Thank you. afraid this heart, love's faithful king. Mm-hmm.